in primo piano. Buongiorno di nuovo a tutti voi. I giornali titolano: le borse volano perché Tim Geithner, il ministro del tesoro, ha presentato un piano molto articolato. Ma per capirne di più, direi bisogna leggere senza dubbio un fondo molto interessante di Luigi Zingales sul Sole 24 Ore, che scrive: di primo acchito la proposta del segretario al tesoro Tim Geithner sembra geniale. Invece di lasciare totalmente il compito di comprare i titoli tossici a uno Stato incompetente, il piano favorisce la formazione di partnership tra Stato e capitale privato, in cui la Federal Reserve concede credito per l'86%, il Tesoro fornisce il 50% del capitale azionario e i privati il resto. Il piano è molto attraente in termini di marketing politico. Non c'è bisogno di chiedere soldi al Congresso. Viene sfruttata la competenza del settore privato e la competizione garantisce la trasparenza. Ma a guardar meglio, scrive Zingales sul Sole 24 Ore, si tratta di un enorme regalo a Wall Street. Di fatto il Tesoro sta sussidiando la creazione di hedge funds fortemente indebitati. Mettendo solo $7 per ogni 100 di investimento, i privati ottengono il 50% di qualsiasi guadagno senza rischiare di perdere nulla in più dei $7. Ho calcolato, scrive Zingales, che grazie al sussidio federale questi hedge funds potrebbero pagare i titoli tossici fino al 75% in più del loro valore senza perderci. L'unico a perderci sarà il contribuente, che paga il costo del sussidio senza ricevere nulla in cambio. Per aggiungere l'inganno alla beffa, chi guadagnerà maggiormente da questa operazione saranno proprio coloro che sono stati al centro del processo di cartolarizzazione. Avendo una maggiore conoscenza del valore dei titoli che hanno creato, saranno quelli meglio posizionati per guadagnarci da questo sistema. Invece di essere condannati, i veri untori vengono premiati profumatamente, scrive Zingales sul Sole 24 Ore. E purtroppo questo non è l'unico caso. Il nuovo piano concordato dalla Federal Reserve e dal Tesoro per riattivare il processo di cartolarizzazione si tradurrà in affari per più di $1 miliardi per le agenzie di rating. Ma come? Proprio loro indicati da tutti come le maggiori responsabili dell'attuale crisi? Ebbene sì. Ma allora da che parte sta l'amministrazione Obama? Dalla parte dei pensionati impoveriti che chiedono giustizia sommaria o dalla parte dei ricchi insider che dopo aver approfittato del boom si arricchiscono dalla crisi? Zingales risponde che i periodi di profonda crisi facilitano la formazione di una pericolosa alleanza tra i diseredati e le elite dominanti. Il rischio di suscitare la rabbia popolare giustifica la mancanza di trasparenza al vertice. E la mancanza di trasparenza favorisce gli insider, i quali sono disposti a pagare per i propri benefici con qualche concessione populista. A farne le spese è il mercato e l'uguaglianza delle opportunità. Questa è l'amara conclusione di Luigi Zingales sul Sole 24 Ore. In tema economico, ieri alcuni giornali, in particolare Repubblica, aveva evidenziato l'allarme del commissario europeo Almunia, e su questo tema diversi quotidiani tornano oggi con dei commenti, in particolare Il Giornale, che titola in prima pagina con titolo molto evidente: la UE sbugiarda i catastrofisti, e affida il fondo a Vittorio Macioce, un fondo intitolato La fabbrica della paura, nel quale, ricordando la dichiarazione di Almunia, dice che il giorno dopo, ovvero ieri, Amelia Torres, sua portavoce, smentisce. Almunia non ha detto quello che leggo su Repubblica. Articoli tendenziosi e non molto responsabili. La situazione è abbastanza seria e i mercati sono così nervosi che non è proprio necessario rincarare la dose. Questa è la dichiarazione della portavoce di Almunia. Qualcosa, scrive Macioce, a quanto pare si è perso nella traduzione. Il sospetto che gran parte della stampa italiana abbia preso la crisi dal lato scuro, nero, e gli stessi italiani si chiedono se questa lunga litania, che dura da mesi, di titoli sempre più cupi, tragici, senza rimedio, sia la realtà o uno specchio deformato che vede il futuro più nero della mezzanotte. Insomma, un articolo molto duro nei confronti della stampa allarmista. Sul Giornale troviamo anche un'analisi di Andrea Tornielli sul viaggio del Papa. Ieri i vescovi hanno protestato per il trattamento che la stampa ha riservato al Papa, dicendo che i giornali lo hanno irriso e offeso. Ebbene, Tornielli, che ha seguito il Papa in Africa, scrive un commento intitolato «Quei discorsi che pochi hanno voluto sentire». Scrive Tornielli: per 3 giorni nei paesi europei, così come negli Stati Uniti, mentre il Papa parlava di povertà, sviluppo, diritti umani, si è discusso di profilattici, per poi passare durante i successivi 3 giorni a parlare di aborto terapeutico, sulla base di una frase pronunciata da Benedetto XVI in un discorso forte sui mali che affliggono l'Africa. La macchina mediatico-politica, una volta messa in moto, non si è più fermata. Così, 16 discorsi pronunciati in terra africana si sono ridotti a 2 frasi, la prima delle quali, peraltro, pronunciata in modo estemporaneo durante la conferenza stampa sull'aereo. L'impressione è che Benedetto XVI non sia eccessivamente preoccupato di questa crescente ostilità. Mai come in questi giorni si è colta l'enorme distanza tra viaggio reale e viaggio virtuale. E se è vero che la critica montante presso certe burocrazie occidentali non ha precedenti recenti, bisogna pur ricordare che critiche ferocissime vennero mosse a Giovanni Paolo II nei primi anni del suo pontificato. Così Andrea Tornielli sul Giornale di questa mattina. La Repubblica anche si occupa di Vaticano, di rapporti con la religione, affrontando un altro tema, quello della legge sul testamento biologico, e i toni sono decisamente diversi rispetto a quelli del giornale. Infatti in prima pagina appare un commento di Stefano Rodotà: l'egemonia perduta. Secondo Rodotà non è nuova l'arroganza di una politica vaticana che, debole nel mondo, cerca occasioni di rivincita nel giardino di casa, in questa povera Italia che, presentata come il luogo dal quale doveva partire la riconquista cattolica del mondo, appare sempre di più come un fortilizio dove una gerarchia disorientata cerca di rassicurare se stessa alzando la voce. Con parole forti si vuole imporre l'approvazione di una legge sul testamento biologico sgangherata e incostituzionale, lesiva dei diritti delle persone. Insomma, Repubblica prende una linea piuttosto critica. Torniamo al Sole 24 Ore, che evidenzia, credo sia l'unico giornale a farlo, una proposta della Cina, ovvero un auspicio, ovvero che venga creata una nuova moneta globale. Secondo i cinesi serve una valuta di riserva sovranazionale, anche se richiederà molto tempo. E nel frattempo Pechino è pronta a sottoscrivere le emissioni di bond del Fondo Monetario Internazionale, ma chiede una distribuzione più equa dei poteri all'interno dell'organizzazione. Insomma, la Cina in questi tempi di crisi si muove per rafforzare il proprio ruolo. Ed è anche un aspetto che evidenzia Franco Venturini sul Corriere della Sera, con un fondo dal titolo «La dignità perduta». La decisione del governo sudafricano di negare il visto d'ingresso al Dalai Lama non è purtroppo senza precedenti, ma è più inaccettabile di tutte le altre per almeno 2 motivi. Il primo riguarda la storia del Sudafrica, una storia marcata a fuoco dalla tragedia dell'apartheid. Chi ha una storia del genere dovrebbe sentirsi obbligato a restarle fedele, scrive Venturini sul Corriere. Ed è per questo che la scelta del governo di Pretoria di non accogliere il leader spirituale di una minoranza oppressa assume i contorni di una vergognosa autosconfessione, di una fuga dalla propria insanguinata e sofferta identità. Il secondo motivo, che pesa sulla decisione sudafricana, si chiama minacce cinesi, e qui vediamo il collegamento con l'articolo del Sole 24 Ore. Quelle minacce alle quali Pretoria ha ceduto. Da qualche anno ormai la Cina conduce una strisciante ricolonizzazione dell'Africa. Dal Congo dei massacri fino al caso tragico del Darfur, i cinesi si disinteressano totalmente del rispetto dei diritti umani e puntano al sodo, cioè a sfruttare le fonti di energia e a sostenere i governi compiacenti. Da ieri il governo sudafricano si è iscritto a questa categoria, forse conveniente, ma di sicuro poco onorevole. Così Venturini sul Corriere della Sera di questa mattina. Il Messaggero invece torna su un tema che ieri già aveva occupato ampio spazio sulla sua prima pagina, ovvero il problema della droga, e affida il fondo a Silvio Garattini. Dice Garattini che la società civile assiste in modo passivo a un fenomeno che non rappresenta più un'eccezione o una curiosità, ma una generalizzazione. Il mondo della droga sta penetrando tra i giovani. E rivela che in circolazione esistono bustine che vengono vendute come se fossero utilizzate per profumare gli ambienti. In realtà sono estratti vegetali che vengono poi impiegati in base alle informazioni diffuse da internet come sigarette da fumare. Sono difficili da bloccare perché non contengono cannabis né i principi attivi presenti in questa droga. Contengono invece altre sostanze chimiche che agiscono sugli stessi recettori cerebrali, su cui esercita il suo effetto la cannabis. Insomma, l'effetto è simile, anzi decuplicato, addirittura di 4 o 5 volte. Basta una sigaretta per fumare, una sigaretta equivale a 4 o 5 spinelli a base di cannabis. E ricordando come la droga sia sempre più diffusa, Silvio Garattini si chiede come contrastare. Bene, pensa alla fine che la repressione non sia sufficiente, che l'unico modo per contrastare questo fenomeno sia lavorare sull'educazione sia in famiglia che nella società. Mi fermo un attimo, cedo la linea al traffico, ci risentiamo tra pochi istanti. In primo piano. Rieccoci in onda e ricominciamo la rassegna stampa partendo dal Riformista, che titola «Povero Silvio, al fisco ha dichiarato un decimo dell'anno precedente», un articolo di Gianmaria Pica. Dice: «Non c'è nessuno», scrive Gianmaria Pica, «non c'è nessuno in politica ricco come lui, ma osservando le dichiarazioni dei redditi dei parlamentari italiani, Silvio Berlusconi sembra essere in crisi nera. Nel 2007, infatti, il reddito del Presidente del Consiglio è quasi 10 volte in meno di quello del 2006. Il Premier nel 2007 ha guadagnato circa 14,5 milioni di euro, quasi un decimo degli oltre 139 milioni del 2006 e la metà del 2005. Insomma, il Cavaliere, il cui reddito sembrava inarrivabile, è diventato un cittadino non proprio comune, ma quasi. Ma è davvero così? Insomma, Gianmaria Pica invece poi spiega che in realtà non è esattamente così, perché parte dei redditi sono rimasti nelle sue quattro holding, che all'inizio del 2009 gli hanno restituito un assegno da 160 milioni. Il Riformista pubblica anche una lunga intervista a firma di Stefano Cappellini a Massimo D'Alema sulla guerra nel Kosovo, di cui ricorre proprio in questi giorni il decennale. La guerra che rifarei, D'Alema racconta, ed è una testimonianza interessante perché D'Alema sostenne con molta decisione a nome del governo allora di centrosinistra un intervento militare. Ebbene, non ha ripensamenti, dice D'Alema: abbiamo messo fine alle guerre balcaniche, ma ho sofferto per le tante vittime civili. Quante discussioni con gli americani. Era buffo che a garantirli fosse un comunista come me, mentre Dini trattava con i serbi. E ancora, Clinton ci chiese di limitarci a offrire le basi, ma non era moralmente giusto. L'Italia non è una portaerei, obiettai, e dunque l'Italia partecipò ai bombardamenti nel Kosovo. Un altro giornale di sinistra, una sinistra diversa rispetto a quella del Riformista, ovvero Il Manifesto, dedica anche molto spazio a questo anniversario con due articoli, uno a firma di Luciana Castellina e l'altro di Ennio Remondino da Belgrado. Bene, il tono è completamente diverso, si parla di un disastro che Luciana Castellina riassume in 10 ragioni e dice: a 10 anni di distanza il problema Kosovo è ancora tutto lì, aperto e drammatico, sebbene dopo le bombe i paesi NATO abbiano proceduto a un riconoscimento ufficiale dell'indipendenza del paese, calpestando definitivamente tutte le regole internazionali e senza aprire la strada a una soluzione reale. Insomma, il bilancio è negativo secondo Il Manifesto. Passiamo alla Stampa, che nella consueta rubrica di Massimo Gramellini, buongiorno, parla della vicenda di Rax, ovvero Carlo Rax, detto faccia da pugile, perché ha la faccia da pugile, brutta, sporca e cattiva. È in Italia per fare il pasticcere e abita in un campo nomadi vicino a Roma. Un giorno arriva la polizia e lo chiude in una stanza buia con le sbarre alle finestre. Gli parlano italiano, ma lui non capisce l'italiano. Allora gli parlano romeno, ma lui non capisce il romeno. Capisce solo il dialetto della Transilvania, come Dracula, ma lui giura che non ha mai morso nessuna donna che non fosse d'accordo. Lo accusano di averne morse addirittura due, una ragazza al parco della Caffarella, una signora al quartiere Primavalle. La TV, scrive Gramellini sulla Stampa, mette la sua faccia dappertutto. I giornali scrivono che lui è un mostro e i poliziotti degli instancabili segugi. La signora di Primavalle lo va a vedere in galera e sviene. E lui, dice. Poi ci ripensa, ma forse no. Allora gli fanno l'esame del DNA. Il risultato è che non ha morso né la ragazza né la signora. Però magari ha guardato chi le mordeva, pensa la polizia, e lo tiene dentro per 35 giorni. 35 giorni tiene dentro Carol Rax, cittadino dell'Europa Unita, incensurato. Poi i due romeni confessano e lui passa dal carcere al salotto di Bruno Vespa con tante scuse. Il suo avvocato dice che adesso potrà chiedere i danni. Ma a chi? A giornali TV che lo hanno condannato per la sua faccia? O agli instancabili segugi che hanno creduto alle false confessioni? Carol Rax ai danni preferirebbe di gran lunga un posto di lavoro. Pasticceri, mettetelo alla prova, non morde. Così, ironicamente, Massimo Gramellini sulla Stampa. Passiamo a Libero, che apre con una notizia che riguarda Unicredit. Il titolo è «Non pagate i debiti». La Corte d'Appello di Roma blocca la condanna di Unicredit a rimborsare 223 milioni a Cirio. Motivo? C'è la crisi. E allora i tribunali congelino anche tutti i mutui degli italiani, scrive Giuliano Paragone sulla prima pagina di Libero. La Padania ci ricorda che oggi probabilmente è il giorno del federalismo fiscale. Questa sera l'aula della Camera dei Deputati concluderà l'esame del disegno di legge delega sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, insomma il giorno del federalismo fiscale. La Padania, il giorno, rapidamente, un mondo low cost, la sfida alla crisi internazionale porta a un boom dei prodotti economici, abbigliamento, cibo e trasporti a basso prezzo. Il fatturato quest'anno salirà a 61 miliardi, oltre il 4% del PIL. E l'auto si adegua, in India è sul mercato a $1,600 la Tata Nano. Tra due anni in Europa arriverà a un prezzo di 5.000 euro. Avvenire invece dà molto spazio ai lavori del Consiglio Permanente della CEI e in particolare alle dichiarazioni di Bagnasco, che dice: nella crisi, vicini alla gente, volto di una chiesa amica, non accetteremo che il Papa venga irriso e offeso. E invece negli esteri osserva come Obama sta preparando una exit strategy dall'Afghanistan, insomma uno sviluppo da seguire attentamente. Ancora rapidamente su Europa, la Francia risparmia usando in particolare la Gendarmerie Nazionale francese, ha deciso di abbandonare Windows in favore di Ubuntu Linux, che è un open source, un sistema che non costa nulla, e infatti in pochi mesi ha risparmiato 50 milioni di euro che altrimenti sarebbero stati spesi in licenze e in costi di manutenzione. In pratica il budget annuale per il settore PC è stato ridotto del 70%, chissà che qualcuno non si ispiri ai francesi. Io mi fermo qui e passo la linea ad Alessandro. Noi ci risentiamo domattina alle 7:30.